Italia in controluce. Buona mattina, oggi è il 20 gennaio, è la prima edizione di Italia in controluce. Buongiorno a tutti, da Daniele Biacchessi. Oggi un numero unico dedicato a Torino che va al voto amministrativo nei giorni della battaglia sindacale di Mirafiori. Il racconto di Paolo Piacenza. Una partita complessa. Sul prossimo voto a Torino, quello che dovrà scegliere il sindaco e quindi il governo della città dopo 18 anni di centrosinistra, all'indomani del referendum Fiat pesano ancora tante variabili da rendere prudenti anche i più spericolati predittori elettorali. La prima, forse più importante, è proprio quella che riguarda il futuro della grande azienda. Se è vero che il voto a Mirafiori, nonostante l'alta percentuale di no, ha messo un punto fermo, i passi successivi sono tutti da verificare. Il ruolo dello stabilimento nella nuova galassia Fiat, i modelli in arrivo, i rapporti con Chrysler. E comunque i tempi sono lunghi. Per il fabbricone torinese si apre una lunga stagione di cassa integrazione in attesa che il piano Marchionne diventi realtà. Poi ci sono le variabili politiche. Chiamparino resta uno dei sindaci più amati d'Italia, ma il centro-sinistra torinese, che pure alle regionali in città ha conservato percentuali molto alte, è diviso. Nel PD sono 4 gli autocandidati alle primarie del 27 febbraio. L'ex segretario del PC torinese Giorgio Ardito, il cattolico e quarantenne Davide Gariglio, ex presidente del Consiglio regionale, il leader della sinistra PD, attuale vicepresidente dell'Assemblea regionale Donato Placido e naturalmente il candidato più in vista, Piero Fassino, ex ministro ed ex segretario di S. Fassino ha già raccolto le firme necessarie a candidarsi ufficialmente e per lui, dopo Bersani, si sono spesi 3 big dell'industria e della finanza come Enrico Salza, Paolo Cantarella e Carlo De Benedetti. Davanti a loro Fassino ha promosso la sua candidatura al Lingotto, proprio all'indomani del referendum Fiat, nel nome di quello che si può definire, un po' in politichese, rinnovamento nella continuità. Sì, è un'espressione che ci sta, nel senso che abbiamo alle spalle 15 anni di straordinaria trasformazione della città di Torino, che con le giunte Castellani e Chiamparino ha affrontato la crisi che colpì Torino tra l'80 e il 90 e da quella crisi via via la città è riuscita a uscire grazie a un'azione di promozione, incoraggiamento, accompagnamento che gli enti locali hanno fatto alla trasformazione della città. Da qui si tratta di partire per una nuova fase dell'espansione e lo sviluppo della città lungo queste linee. La partita a Torino è complessa anche perché nel 2010 la regione è tornata al centrodestra, anzi in regione è arrivata la Lega. La vittoria di Cota, nonostante la coda giudiziaria sul voto, è stato uno scossone e quindi la coalizione spera nel colpo grosso, fidando nelle difficoltà dell'altro fronte. Il nome più gettonato è quello dell'enfant prodige della politica del PDL, l'assessore regionale alla cultura Michele Coppola. 37 anni, per 11 è stato consigliere comunale, per 7 vicepresidente del Consiglio della Città della Mole. All'indomani del referendum Fiat si è dimesso proprio da consigliere comunale per non sacrificare, spiega, un impegno importante al nuovo ufficio di assessore. In molti, però, in città scommettono che questa mossa avvicini Coppola alla candidatura a sindaco per il centrodestra. Lui per ora si schernisce, ma rilancia sul futuro di Torino. A Torino, in realtà, oggi io vedo meno rispetto a qualche anno fa quell'energia positiva che aveva contraddistinto Torino come una città laboratorio di idee, di iniziative, ma poi soprattutto è che Torino ha perso quella capacità di essere anche laboratorio di nuove imprese, di nuove iniziative imprenditoriali. E questa è la vera grave pecca degli ultimi anni. Questa energia va riscoperta, va risprigionata. E allora il 2011, che è un anno estremamente importante per il nostro paese, e deve essere quest'anno l'anno di programmazione dei prossimi 20 anni per la nostra città, di costruzione dei prossimi 20 anni. A sentire Fassino e Coppola oggi il divario si gioca molto sulle sfumature. Un po' più di continuità Fassino, un po' più di cambiamento Coppola. Nessuno però può e vuole rompere con la strada che la città ha tracciato finora e nessuno può rifiutarsi di dire sulla Fiat una parola distensiva. Per l'ex segretario di S serve una fase nuova. Adesso si tratta di dar corso agli investimenti, naturalmente la Fiat deve onorare tutti gli impegni che ha assunto e su cui ha chiesto il voto e l'approvazione dei lavoratori. E nella fase attuativa applicativa dell'accordo io credo che saggezza vuole che sia capace di coinvolgere tutti i lavoratori, tutte le organizzazioni sindacali, anche la FIOM. L'assessore regionale azzurro non cita certo la FIOM, ma sui lavoratori chiede una linea distensiva. Io credo che aver votato sì a quel referendum in sostanza significa aver scelto il futuro, e sono convinto che oggi, come avviene sempre in democrazia, ottenuto un risultato si deve ripartire da tutti i lavoratori, e oggi tutti devono avere fiducia in quelle che sono state le parole di un'azienda che credo, anzi io sono aperto, voglia per se stessa scommettere sul proprio futuro. Oltre alla Fiat, se Coppola non si sbilancia ancora, Fassino propone di continuare sulla diversificazione, non solo l'auto, ma green economy, sanità e cultura. Poi però c'è da tenere presente che il Comune vive una stagione difficile sul fronte dei conti, e su questo Coppola va all'attacco. Mi piacerebbe che il prossimo sindaco di Torino cogliesse una sfida che io ritengo essenziale, che è una riforma strutturale del ruolo e del funzionamento del municipio. Oggi ci sono delle oggettive difficoltà che Torino, la città di Torino e il municipio attraversano, c'è un debito che è soffocante e c'è un'assenza grave di programmazione strategica industriale di quelle che sono le aziende partecipate e controllate dalla città. Fassino invece rassicura e propone una soluzione. Il maggiore indebitamento che il Comune di Torino ha realizzato è per investimenti, non per spesa corrente. Quindi non si sono buttati i soldi o si sono sprecati o si è avuta una spesa corrente fuori controllo. No, detto questo indebitamento è gestibile, è governabile, perché la città di Torino ha un patrimonio piuttosto significativo, sia immobiliare sia nelle partecipate, e dismettendo una parte delle quote azionarie delle partecipate senza che il comune perda il controllo delle stesse, è possibile liberare risorse. Fassino minimizza anche la questione generazionale, che invece Coppola comprensibilmente può cavalcare, parlando del bisogno di una nuova generazione di quarantenni alla guida della città. L'ex segretario di S risponde con un'esperienza notevole, anche internazionale, l'appoggio di un bel pezzo del Gotha torinese e con la promessa di costruire una squadra di giovani. Ma soprattutto rivendica il fattore umano come ingrediente chiave. Il sentimento che caratterizza il mio modo di essere, la mia personalità, il mio modo di fare politica è la passione, la gente lo sa. La gente sa che io sono uno che dice le cose in cui crede e fa le cose in cui crede e crede nelle cose che fa. Ma la partita, abbiamo detto, è complessa e resta ancora da dire di due fattori che potrebbero decidere del voto torinese. Uno si chiama Giorgia Airaudo. Il nome del responsabile auto della FIOM ritorna a più riprese come possibile candidato sostenuto da Nichi Vendola. Lui per ora prende tempo, ma se scendesse in campo nel centro-sinistra si spariglierebbero molte carte. L'altro fattore, forse più importante, si chiama politica nazionale. Con questi chiari di luna, una crisi di governo potrebbe aprire scenari del tutto nuovi, anche sotto la Mole. Paolo Piacenza, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Era la prima edizione di Italia in Controluce. Vi ricordo, su Facebook Radio 24 Italia in Controluce, in Controluce su Twitter. Il blog di questo programma lo trovate sul sito radio24.it. Una mail: controluce@radio24.it. Torniamo oggi alle 13.30 con nuove storie. Oggi vi parleremo della polemica sul nuovo film su Renato Balanzasca.